Capitolo 107. Gli Epigoni. I figli dei sette eroi caduti dinanzi a Tebe giurarono di vendicare i loro padri. Essi sono noti come gli Epigoni. L'oracolo di Delfi promise loro la vittoria se Alcmeone, figlio di Anfiarao, avesse assunto il comando. Ma egli non provava desiderio di attaccare Tebe e si accalorò a discutere della opportunità di quella guerra col fratello Anfiloco. Poiché non riuscivano ad accordarsi se combattere contro Tebe oppure no, rimisero la decisione nelle mani della loro madre Erifile. Tersandro, figlio di Polinice, vedendo così ripetersi una situazione a lui familiare, seguì l'esempio del proprio padre, corruppe Erifile con il magico manto che Atena aveva donato alla sua Ava Armonia in occasione delle nozze, così come Afrodite le aveva donato la collana. Erifile decise per la guerra e Alcmeone assunse di malavoglia il comando. In una battaglia combattuta dinanzi alle mura di Tebe, gli Epigoni perdettero Egialeo, figlio di Adrasto, e Tiresia, il veggente, predisse allora ai tebani che la loro città sarebbe stata distrutta. Le mura, annunciò, avrebbero resistito finché l'ultimo dei sette antichi eroi fosse rimasto in vita. Adrasto, l'unico superstite, sarebbe morto di dolore alla notizia della fine di Egialeo. Era dunque opportuno che i tebani fuggissero dalla città quella notte stessa. Tiresia aggiunse che, avessero i tebani ascoltato il suo consiglio oppure no, la sua sorte non mutava. Egli era destinato a morire appena Tebe fosse caduta nelle mani degli argivi. Col favore delle tenebre, i tebani fuggirono al nord portando seco le mogli, i figli, le armi e poche suppellettili e quando si furono allontanati abbastanza, si fermarono e fondarono la città di Estiea. All'alba Tiresia, che era andato con loro, si dissetò alla fonte Tilfussa e all'improvviso spirò. Quel medesimo giorno, che fu il giorno in cui Adrasto ebbe notizia della fine di Egialeo e morì per il dolore, gli argivi, trovando Tebe deserta, vi irruppero, rasero al suolo le mura e raccolsero il bottino. Ne mandarono la parte migliore ad Apollo a Delfi, compresa la figlia di Tiresia Manto o Dafne, che era rimasta in città, ed essa divenne la pizia del dio. Ma la faccenda non finì lì. Tersandro si vantò che il merito della vittoria argiva andava in gran parte a lui. Aveva infatti corrotto Erifile, come già suo padre Polinice, affinché essa desse l'ordine di marciare contro Tebe. Alcmeone, che udì per caso le parole di Tersandro, apprese così che la vanità di Erifile aveva provocato la morte di Anfiarao e per poco non provocava anche la sua. Egli consultò allora l'oracolo di Delfi e Apollo rispose che Erifile meritava la morte. Alcmeone interpretò erroneamente quel responso come un'autorizzazione al matricidio e, al suo ritorno, senza por tempo in mezzo, uccise Erifile, taluni dicono con l'aiuto del fratello Anfiloco. Ma Erifile, morente, maledisse Alcmeone e gridò: «Terre di Grecia e d'Asia e del mondo intero, negate asilo ai miei assassini!» A che le erinni vendicatrici si accanirono su di lui e lo fecero impazzire. Alcmeone fuggì dapprima in Tesprozia, dove gli fu negato l'ingresso, e poi a Psofide, dove il re Tegeo lo purificò in nome di Apollo. Tegeo gli diede in sposa la propria figlia Arsinoe, e a lei Alcmeone donò la collana e il manto che aveva portati con sé. Ma le erinni, nonostante la purificazione, continuarono a tormentarlo e per colpa sua la terra di Psofide divenne sterile. L'oracolo delfico consigliò allora ad Alcmeone di recarsi dal dio del fiume Acheloo, che lo purificò. Alcmeone sposò la figlia di Acheloo, Calliroe, e si stabilì su una terra formata di recente dal limo del fiume e che non era inclusa nella maledizione di Erifile. Colà egli visse in pace per qualche tempo. Un anno dopo Calliroe, che temeva di perdere la sua bellezza, rifiutò di accogliere Alcmeone nel suo letto finché egli non le donasse la collana e il manto famosi. Per amore di Calliroe, Alcmeone osò ritornare a Psofide e, giunto colà, ingannò Tegeo. Senza far parola del suo matrimonio con Calliroe, inventò una predizione dell'oracolo delfico. Secondo tale predizione, egli non si sarebbe mai liberato dalle erinni se non avesse offerto la collana e il manto al santuario di Apollo. Tegeo allora convinse Arsinoe a consegnarglieli ed essa obbedì di buon grado, convinta che Alcmeone sarebbe ritornato a lei appena le erinni lo avessero lasciato, poiché di nuovo lo incalzavano implacabili. Ma uno dei servi di Alcmeone ciarlò dicendo tutta la verità sul conto di Calliroe e Tegeo si infuriò a tal punto che ordinò ai suoi figli di tendere un'imboscata ad Alcmeone e ucciderlo appena fosse uscito dal palazzo. Arsinoe assistette all'assassinio da una finestra e, ignara della doppiezza di Alcmeone, a gran voce rimproverò il padre e i fratelli poiché avevano violato le leggi dell'ospitalità e l'avevano resa vedova. Tegeo la supplicò di starlo ad ascoltare finché le avesse spiegato tutto, ma Arsinoe si tappò le orecchie e augurò che morte violenta cogliesse lui e i suoi fratelli prima della nuova luna. Per ripicco, Tegeo la chiuse in un cofano e la mandò in dono come schiava al re di Nemea. Poi disse ai suoi figli: «Portate questa collana e questo manto ad Apollo Delfico, egli provvederà affinché non siano causa di altri guai». I figli di Tegeo gli ubbidirono, ma frattanto Calliro, informata di quanto era accaduto a Psofide, pregò perché i fanciulli che essa aveva avuto da Alcmeone diventassero adulti in un solo giorno e vendicassero la morte del padre. Zeus ascoltò le sue suppliche e i fanciulli sbocciarono all'improvviso nella virilità, afferrarono le armi e si recarono a Nemea, dove i figli di Tegeo avevano interrotto il loro viaggio di ritorno da Delfi, nella speranza di indurre Arsinoe a ritrattare la sua maledizione. Cercarono di dirle la verità sul conto di Alcmeone, ma essa non volle ascoltare nemmeno loro. E i figli di Calliro li sorpresero e li uccisero. Poi, affrettandosi verso Psofide, uccisero anche Tegeo prima che la nuova luna fosse apparsa nel cielo. Nessun re o dio del fiume in Grecia acconsentì a purificarli dei loro crimini, ed essi viaggiarono verso occidente fino all'Epiro e colonizzarono la Carnania, che fu così chiamata dal nome del maggiore dei due fratelli, Acarnano. Il manto e la collana furono esposti a Delfi fino alla guerra sacra, IV secolo avanti Cristo, quando il generale focese Faillo li rubò, e non si sa se la collana d'ambra legata in oro, che la gente di Amatunte sosteneva essere quella di Erifile, sia autentica o falsa. Taluni dicono che Tiresia avesse due figlie, Dafne e Manto. Dafne rimase vergine e divenne Sibilla, ma Alcmeone rese Manto madre di Anfiloco e di Tisifone, prima di mandarla ad Apollo Delfico. Alcmeone affidò ambedue i fanciulli a Creonte, re di Corinto. Anni dopo la moglie di Creonte, invidiosa della straordinaria bellezza di Tisifone, la vendette come schiava, e Alcmeone, che non sapeva chi essa fosse, la comprò e la fece servire in casa propria, ma fortunatamente si astenne dall'incesto. Per quanto riguarda Manto, Apollo la inviò a Colofone, nella Ionia, dove essa sposò Racio, re della Caria. Loro figlio fu Mopso, il celebre indovino. Si tratta di un racconto popolare, con pochi elementi mitici, che i cantastorie potevano narrare sia a Tebe sia ad Argo, senza offendere nessuno. Interessava le genti di Psofide, di Nemea e della valle dell'Acheloo. Spiegava come fosse stata fondata Estiea e colonizzata la Carnania. E aveva infine uno spiccato senso morale. Insegnava infatti che instabile è il volere delle donne e pazzi sono gli uomini che ne assecondano la vanità e la cupidigia. È cosa saggia dare ascolto al consiglio degli indovini degni di fede e pericoloso invece interpretare erroneamente gli oracoli. Irrevocabile infine è la maledizione che ricade sul capo del figlio che ha ucciso sua madre, sia pure per vendicare l'ombra del padre. Il potere concesso più volte a Erifile di decidere tra la pace e la guerra è l'aspetto più interessante di questa leggenda. Il vero significato del suo nome, ricca di foglie, fa supporre che essa fosse una sacerdotessa argiva di Era incaricata di custodire l'albero oracolare, come accadeva a Dodona. In tale caso l'albero era probabilmente un pero sacro a Era. Sia la guerra dei sette contro Tebe, che Esiodo chiama la guerra del gregge di Edipo, sia la guerra successiva, che qui è stata narrata, pare abbiano preceduto la spedizione degli Argonauti e la guerra di Troia, e si possono grosso modo situare nel XIV secolo avanti Cristo.